Bene, procediamo e anzi concludiamo queste letture dantesche che devono essere inevitabilmente essenziali, vista la particolare modalità dell'insegnamento a distanza e anche la difficile condizione così in cui ci troviamo. Ecco, canto 33esimo dell'inferno, canto celebre, canto del conte Ugolino. Ci troviamo fra i traditori, ecco, nella Caina. Ricorderete nel quinto canto dell'inferno quel riferimento. Caina attende chi a vita ci spense. Cioè, Gianciotto che uccise a tradimento Paolo e Francesca è destinato alla Caina dove si trovano i traditori. E per Dante, insomma, il peccato di tradimento è particolarmente grave, particolarmente ignominioso, mentre chi pecca per amore, come appunto Paolo e Francesca, deve comunque essere punito. Ma la pena è meno umiliante e anche la loro posizione nell'inferno è in un luogo meno basso. Dunque, l'incipite celebre, ecco, la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendo la capelli del capo che gli avea di retro guasto. Quindi il conte Ugolino che morde per l'eternità il collo dell'arcivescovo Ruggeri, che lo fece condannare. Poi cominciò: tu vuoi che rinovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli. Poi cominciò a dire: tu vuoi che io rinnovi, richiami alla memoria un disperato dolore che mi opprime il cuore anche solo a pensarci, senza nemmeno che io ne parli. Ma se le mie parole esser di inseme, che frutti infami al traditor ch'io rodo, parlare lacrimar vedrai insieme. Suoni aspri tipicamente danteschi, il traditor ch'io rodo, che frutti infami al traditor ch'io rodo. E qui si sente quasi il rumore dei denti digrignati. È un aspetto che viene messo in evidenza in modo particolare dalla lettura di Carmelo Bene, il più grande attore italiano del Novecento, perlomeno del secondo Novecento, accanto a Vittorio Gassman, entrambi grandi lettori di Dante, per molti aspetti antitetici, più accademico, più rigoroso e fedele forse Gassman, più umorale, soggettivo, anche provocatorio, Carmelo Bene. Ad ogni modo questo canto risalta in modo particolare nelle sue caratteristiche attraverso la lettura che ne dà Carmelo Bene, poi la inserirò in didattica. Quindi se le mie parole potranno essere semi che produca, cioè una causa di ignominia, di vergogna presso i posteri per il traditore che io mordo, ora mi vedrai parlare e piangere nello stesso tempo. Farò come colui che piange e dice, no? Verso che si trova anche, insomma, questo accostamento fra parole e lacrime, questa mescolanza di parole, di lacrime, di espressione e di pianto si trova anche altrove nell'inferno. Dunque, io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io todo. Quindi il conte Ugolino riconosce Dante come fiorentino soltanto sentendolo parlare. Tu devi sapere che io fui conte Ugolino e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Ora ti dirò perché io sono tal vicino. Il conte Ugolino era stato accusato di avere tradito Pisa, la città di Pisa, consegnando ai nemici fiorentini alcuni castelli, e per questo era stato chiuso nella torre della Muda, così chiamata perché vi venivano chiusi degli uccelli che dovevano cambiare, che dovevano mutare il piumaggio, c'era qual per me ha il titolo della fame, cioè il povero conte Ugolino fu lasciato morire di fame, rinchiuso in questa torre insieme ai figli, che per effetto dei suoi malpensieri, dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Quindi non c'è nemmeno bisogno di ricordare la mia vicenda, cioè io fui attirato con inganno dall'arcivescovo Ruggeri, mi fidai di lui e lui mi fece arrestare. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Ma ora io ti rivelerò ciò che non puoi sapere, ossia quanto fu dolorosa e aspra la mia morte. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame, e che conviene ancor ch'altri si chiuda, m'aveva mostrato per lo suo forame più lune già, quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Dentro la torre della muda c'è un pertugio, quella, la torre che a causa mia viene chiamata torre della fame, e nella quale è destino che anche altri siano ancora rinchiusi. Mi aveva già mostrato attraverso i suoi fori, le sue aperture, più lune, quando io feci il sogno, il sogno di malaugurio, insomma, che mi squarciò il velo, che mi squarciò il velo del futuro, cioè che mi rivelò il futuro, questo motivo del sogno premonitore, tipico della cultura medievale, ma già della cultura classica, insomma. Artemidoro aveva scritto uno straordinario trattato sui sogni, che fu studiato anche da Freud, che lo trovava interessante. E anche questa immagine del velo, ecco, lo squarcio nel velo, no? O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei diversi strani. Il velo, no, la metafora del velo stava ad indicare la lettera sotto la quale si nascondeva un senso celato, in questo caso il futuro che trapela, no, attraverso le pieghe o le lacerazioni di questo velo metaforico. Questi pareva me maestro e donno, dal latino, dominus, no? Cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan vede lucca non ponno. Quindi l'arcivescovo Ruggeri appariva come una sorta di maestro di caccia che spingeva il lupo e i lupicini, cioè il conte Ugolino e i suoi figli, con cagne magre, studiose, conte da cognite, cioè con cagne magre, solerti, frenetiche e ostinate, diciamo, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, si aveva messi dinanzi della fronte, aveva posto davanti a sé queste famiglie, gualandi, Sismondi e Lanfranchi, che erano famiglie nemiche della famiglia della Gherardesca, cioè della famiglia del conte Ugolino. Vedete, questo modo, questa modalità di rappresentazione per noi è molto difficile da capire, bisognerebbe entrare nello spirito dell'araldica medievale, no? L'araldica medievale, cioè queste famiglie che venivano rappresentate attraverso questi stemmi gentilizi ed erano immediatamente riconoscibili attraverso i richiami a questi stemmi, un po' come le squadre di calcio sono per noi riconoscibili dalla maglia, e questo immaginario araldico, queste simbologie gentilizie, spesso spesso zoomorfe, ecco, nella poesia dantesca hanno una grande importanza. In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e i figli, e con l'acute scane mi parea lor veder fenderli fianchi. Ecco, bellissima, terribile allitterazione. Questo è un esempio da manuale di allitterazione. L'allitterazione propriamente detta si ha quando due parole vicine iniziano con la stessa consonante, in questo caso fenderli fianchi. Questa F dà proprio l'idea del taglio, della ferita, di qualcosa di acuto, di tagliente, con l'agute scane, cioè con i denti aguzzi, con le zanne aguzze. Quindi in breve tempo il padre e i figli mi sembravano stanche, e le cagne, queste cagne feroci, che rappresentano le famiglie nemiche del conte Ugolino, azzannano i poveri figlioletti. Questo motivo della caccia infernale, motivo tipicamente medievale, che ha radici germaniche. Odino è il cavallo con 20 zampe, che rappresenta, che è un demone, insomma, in forma di cane, e la leggenda del cacciatore feroce che arriverà fino all'immaginario romantico, Gottfried August Bürger, il cacciatore feroce. Ecco. Noi l'abbiamo vista nella novella, in quella novella di Boccaccio, la novella di Nastagio degli Onesti, insomma, c'è il motivo della caccia infernale, che si trovava anche in una novella analoga nel soggetto, ma antitetica nel significato allegorico, di Jacopo de Passavanti, no? Nello specchio di vera penitenza, il carbonaio di Niversa, cioè di Nevers. Ma ecco, no. Quando fui desto innanzi la dimane, piangere sentì fra il sonno i miei figliuoli che erano con meco, no? Pleonastica questa espressione, con meco, perché meco di per sé significa con me, con meco, è un'espressione pleonastica, e domandar del pane, ecco, terribile. Il padre che sente i figli che piangono nel sonno e chiedono da mangiare. Ben sei crudele se tu già non ti duoli, pensando ciò che nel mio cuore s'annunziava, e se non piangi, di che piangere suoli? Certo sei crudele se non ti duoli, se non ti addolori, pensando ciò che il mio cuore presagiva, e se non piangi, di che cosa sei solito piangere? Già eran desti, e ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso ai miei figliuoi, senza far motto. Questo silenzio, no? Contrapposto a quel digrignare di denti che c'è, no? All'inizio del canto, la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, forbendola capelli, ma anche, no, le agute scane, fenderli fianchi, cioè questa simbologia antropofagica che attraversa tutto il canto e che fa pensare a Seneca, ad esempio, alla cena di Tieste, no? La tragedia di Seneca, il Tieste al quale, per crudele beffa, vengono date da mangiare le carni dei suoi figli. E in Seneca c'è proprio la scena terribile in cui Tieste, solo sentendo il sapore strano di quelle carni, a poco intuisce che cosa è accaduto, non vuole nemmeno crederci, ma alla fine deve rassegnarsi alla evidenza, no? Dunque, ben sei crudele se tu già non ti duoli. Dice, allora, dice, si erano già svegliati, si avvicinava l'ora in cui era solito, in cui solitamente ci veniva portato il cibo, e a causa del suo sogno, perché anche i figli hanno fatto lo stesso sogno che ha fatto il padre, ciascun dubitava, cioè temeva. E io sentii chiudere a chiave l'uscio di sotto dell'orribile torribile, nel senso proprio etimologico latino di horror. E dice, così che io guardai nel viso ai miei figli senza parlare. Questo silenzio tragico è più eloquente di qualsiasi parola. Io non piangea, si dentro impetrai, piangeva Nelly. E Anselmuccio mio disse, tu guardi sì padre che hai. Quindi io non piangevo, a tal punto rimasi impietrito dentro di me, questo impetrai fa pensare alle rime petrose, alla donna pietra, la pietra che è sinonimo di crudeltà, di freddezza, di insensibilità. Ma in questo caso non si tratta di insensibilità, il conte Ugolino rimane impietrito per il terrore, per lo sgomento, per l'angoscia. Perciò non lacrimai, né risposi io tutto quel giorno, né la notte appresso, infinché l'altro sol nel mondo uscì io. Dice, perciò non piansi e non risposi nemmeno per tutto quel giorno e nemmeno la notte successiva, finché non sorse un altro sole. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le mani per lo dolor mi morsi. Dice, non appena un po' di luce fu filtrata nel doloroso carcere e io vidi in quattro visi come riflesso il mio stesso aspetto, per il dolore mi morsi entrambe le mani. Ed essi, pensando che io lo facessi per voglia di mangiare, improvvisamente si alzarono e dissero, padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Cioè, per noi sarebbe meno doloroso, padre, se tu mangiassi le nostre carni, visto che tu ci hai dato, generandoci queste carni, quindi tu puoi spogliarcene. Quetami allor per non farli più tristi, lo di e l'altro stemmo tutti muti, ahi dura terra perché non ti apristi? Allora mi acquietai, ancora questo silenzio tragico, per non rattristarli ulteriormente. Quel giorno e un altro giorno rimanemmo tutti in silenzio, ahi dura terra perché non ti apristi? Questo verso è rimasto celebre, dice perché in quel momento, o terra, non ti sei aperta, non mi hai inghiottito, no? Onde porre fine a questo scempio. Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gettò disteso ai piedi dicendo, padre mio che non mi aiuti, terribile per un padre veder morire i figli senza poterli nemmeno aiutare. Quivi morì, e come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno, tra il quinto di e il sesto, onde io mi diedi già cieco a brancolare sopra ciascuno, e 2 dì li chiamai, poiché fur morti. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Ecco, vedete, qui c'è questo verso rimasto enigmatico, poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Cosa vuol dire? Non si riesce a capire se il conte Ugolino abbia divorato per la fame i cadaveri dei propri figli, o se questo verso significhi alla fine più del dolore fu forte la fame e io morii. L'ambiguità con tutta probabilità è voluta, un po' come nel quinto canto dell'Inferno, basato sull'ambiguità di quel verso, quel giorno più non vi leggemmo avante, che cosa vuol dire? Quel giorno più non vi leggemmo avante perché fummo uccisi da Gianciotto, o quel giorno più non vi leggemmo mai avanti perché dalla lettura passammo all'amore carnale, insomma, no? Coronammo il nostro amore commettendo la colpa per la quale poi fummo uccisi e per la quale siamo finiti all'inferno. Questa ambiguità probabilmente è voluta, e c'è un grande saggio di Jorge Luis Borges, se riesco a trovarlo su internet vi inserisco E se mi ricordo, ecco, vi inserisco il link, il collegamento, insomma, didattica. Jorge Luis Borges, straordinario scrittore argentino, che avrebbe meritato il Nobel, meglio, e gli fu negato per le sue simpatie di destra. Qui dicevano sempre, ma allora che cosa ne pensa di questo Nobel che non le viene dato? E lui, scherzando, rispondeva, ma penso che là in Svezia, l'Accademia di Svezia, siano convinti di avermelo già dato, no? Si sono dimenticati, siano convinti di avermelo già dato, di essersi dimenticati, insomma, no? E così, per questo, no? Non me lo danno, ma ecco, autore fra l'altro di saggi su Dante, di straordinari racconti fantastici, non scrisse mai un romanzo, grande poeta anche, insomma, uno dei giganti del Novecento. Borges scrive un saggio splendido sulla figura del conte Ugolino e dice: nel tempo ambiguo dell'arte, dice Borges, può darsi che quell'ambiguità sia proprio voluta. Nel tempo ambiguo dell'arte, il conte Ugolino ha divorato i cadaveri dei propri figli e nello stesso tempo non li ha divorati. Cioè, rimane questa ambiguità così fra realtà e immaginazione, fra il sì e il no, insomma, questa coincidenza oppositorum. Un po' la storia del gatto di Schrödinger, no? Che potrebbe essere nel contempo vivo e morto, no? La sapete la storia del gatto di Schrödinger, no? Perché nell'indeterminazione quantica, è impossibile sapere in quale momento, in quale parte della scatola in cui è chiuso il gatto si sia diffuso il veleno che lo ucciderà. Che brutta cosa, chiudere un gattino in una scatola di ferro, metterci il veleno. Ovviamente è un esempio fittizio. Allora, il povero gatto di Schrödinger potrebbe essere nello stesso tempo vivo e morto. È tutto un discorso probabilistico. A maggior ragione questo varrà per la poesia, la quale, come dice Paul Zeilan, grande poeta ebreo scampato all'olocausto ma poi morto suicida, e con la poesia non divide il sì dal no. Ecco, questa. D'altra parte, la logique des ensembles flou, cioè la logica sfumata, la logica degli insiemi sfumati, indeterminati, non contempla il principio di non contraddizione. Quindi una cosa può essere nel contempo vera e falsa, o meglio, fra il vero e il falso ci sono gradazioni virtualmente infinite di sfumature intermedie. Quindi forse il modo migliore per leggere la poesia in generale, proprio quella di cogliere e di accettare anche queste ambiguità, questo margine di inconoscibilità. Ecco, fra l'altro, l'immagine del conte Ugolino che divora il collo dell'arcivescovo Ruggeri si trova in Stazio, è un'immagine presa da Stazio. Io avevo la fotocopia con il passo di Stazio, in cui fra l'altro si trovano proprio nello stesso passo della Tebaide, in cui c'è l'immagine di Tideo e, a memoria non me lo ricordo, in questo commento non lo dice, quindi lo devo andare a cercare anch'io in rete, ma lì proprio nello spazio di pochi versi c'è prima una scena così terribile, davvero infernale, no? Questa scena di antropofagia oltretombale, e ecco, no? Poi una scena da notte dei morti viventi, no? Morti viventi, no? Che mangiavano il cervello, no? per ammazzarli bisognava sparare alla testa, no? I morti viventi. Fra l'altro, anche i morti viventi sono un'invenzione dantesca, perché qui proprio nel canto 33esimo c'è la figura di Brancadoria, che insomma è vivo sulla terra ma non sa di essere già morto, la sua anima è già all'inferno ma lui sulla terra è ancora vivo. No. E la ruina in si fatta cisterna, e forse pare ancora lo corpo suso dell'ombra che di qua dietro mi verna. Versi 133 e seguenti. Tu il devi sapere se tu vien pur mo giuso e gli esser branca d'oria. E son più anni poscia passati che il fuscire ha chiuso. Io credo, dice lui, che tu mi inganni, che Brancadoria non morì un quanche, già non è ancora morto, e mangia, e beve, e dorme, e veste panni. Verso bellissimo questo polisindeto, che indica la ripetitività vuota di una vita esclusivamente corporea, esclusivamente carnale. Nel fosso suo di sedde male branche, là dove bolle la tenace pece, non era giunto ancora Michel Zanche, che questi lasciò un diavolo in sua vece, nel corpo suo ed un suo prossimano, che il tradimento insieme con lui fece. Cioè, Brancadoria sulla terra è ancora apparentemente vivo nel corpo, ma il suo corpo è posseduto da un demone. In realtà l'anima di Brancadoria è già all'inferno. Un po' come dice, no? Una canzone, quel poeta che fu Lucio Dalla, no? A dire il vero, i testi li scriveva un grande poeta, Roberto Roversi. Dice, no? I violenti, beh, balla anche per tutti i violenti, svelti di mano e coi coltelli. Forse allora, vedendoti ballare, capirebbero, vedendoti danzare, capirebbero di essere già morti, anche se possono respirare. Ecco, è un po' l'immagine. No, stavo dicendo, allora, siccome al solito ho perso il filo, ma questa immagine di Stazio, ecco, sì, Tideo. Tideo e Menalippo. Cioè, appunto, vi metterò il collegamento. Comunque, basta cercare su internet Tideo e Menalippo e c'è proprio il riferimento. Stazio Tebaide, libro ottavo, versi 716 e seguenti, figlio di un incesto. Tideo, nato dal legame incestuoso fra Oineo e sua figlia Gorge, quindi nato da un incesto padre-figlia, quindi insomma, non era nato sotto i migliori auspici, fu padre di Diomede, vabbè, uno degli eroi greci protagonisti della guerra di Troia, durante l'assedio dei Sette contro Tebe, e qui Pisa viene definita Novella Tebe, non è casuale. Questo è perché c'è questo riferimento ai sette a Tebe. Dante non conosceva Eschilo, ovviamente, non poteva, non aveva letto la tragedia di Eschilo, ma c'è quell'invettiva ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese, là dove si ciona. Beh, sì, potremmo arrivare fino al verso 80, fino al verso 90, insomma. Ma tornando qua a Tideo e Menalippo, dice, no, durante l'assedio dei Sette contro Tebe, Tideo venne ferito mortalmente dal tebano Menalippo, ma pur morente riuscì ad uccidere l'avversario. Espresse quindi tutto il suo odio feroce, chiedendo ai compagni di portargli la testa mozzata di Menalippo, affinché egli in fin di vita potesse roderne le carni e succhiarne il cervello. Una scena proprio da morti viventi, no? La notte dei morti viventi, il grande film di George Romero, no? Il primo grande, no, film, La notte dei morti viventi, uno dei più grandi horror di tutti i tempi. Poi vabbè, di film sugli zombie ne hanno fatti tantissimi, ma insomma, uno peggio dell'altro, insomma l'unico veramente, il grande capolavoro, quello di George Romero, che fra l'altro con questa Notte dei morti viventi, ma rappresentava allegoricamente il senso di colpa della società americana per la guerra del Vietnam, no? Era capolavoro, se vi capita, guardatelo. Ad ogni modo, ecco, stavamo dicendo, ah sì, qui, l'invettiva contro Pisa, novella Tibe, appunto, no? Perché è un nuovo teatro di uno scontro fratricida, di tradimenti, incesti, eccetera. Ai Pisa, vituperio delle genti, verso 79, questa è una invettiva celebre, perché si sa che no, fra fiorentini e pisani c'è questa rivalità. Allora, ai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese, là dove il si suona, poiché i vicini a te punire sono lenti, muovasi la capraia, la gorgona, e facciano siepe ad Arno in sulla foce, sì che gli annieghi in te ogni persona. Beh, un po' come quando, no, allo stadio cantano, pensa, com'è che è, Vesuvio, forza Vesuvio, Vesuvio pensaci tu, una roba del genere. E allora qui, ecco, c'è questo riferimento, questi due massicci montuosi, dice Dante, questi due massicci montuosi dovrebbero stringersi intorno alla foce dell'Arno, in modo tale da creare una bomba d'acqua enorme che si abbattesse su Pisa, cancellandola dalla faccia della terra. Beh, questa è un'invettiva chiaramente iperbolica, che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita delle Castella, non dovevi tu i figliuoi porre a tal croce. Cioè, anche se il conte Ugolino, anche se si diceva che il conte Ugolino ti avesse sottratto a tradimento alcuni castelli consegnandoli a Firenze, non dovevi tu, diciamo, sottoporre i figli a questo supplizio. Innocenti faceva l'età novella, novella Tibe, Uccione il Brigata e gli altri due che il canto suso appella. Ecco, novella Tibe, proprio con riferimento a Saga Tebana e a quell'episodio di Stazio, e quell'episodio di Tiddeo e Menalippo, ecco, evocato nell'incipit del canto. Sto guardando, ecco, ma dunque, stavamo dicendo. Ecco, già che ci siamo, leggiamo anche qualcosa dell'ultimo canto, cioè quello in cui compare figura, viene rappresentata la figura di Satana. Qui Dante non è all'altezza delle sue capacità poetiche, non ha la potenza visionaria di Milton, ad esempio, di Blake. Sono dei grandi poeti fra età barocca ed età preromantica, sono i grandi poeti inglesi che hanno cantato fino a Shelley. Vabbè, Shelley parla di Prometeo, ma attraverso il mito di Prometeo allude comunque alla figura di Lucifero. Questi versi non sono proprio all'altezza del genio dantesco. Comunque, il canto 34esimo, verso decimo e seguenti. Già era, e con paura il metto in metro, là dove l'ombre tutte eran coperte, trasparien come festuca in vetro. Altre sono a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altre com'arco il volto ai piedi rinverte. Insomma, in diverse posizioni, alcuni sottosopra, queste anime erano congelate, erano imprigionate sotto uno strato di ghiaccio. Ecco, interessante notare che qui non è il fuoco, ma è il ghiaccio che viene associato a Satana e all'inferno. Ghiaccio perché molto probabilmente, no, i traditori sono assolutamente freddi, cinici, calcolatori, privi di sentimenti, no? Per questo si trovano imprigionati sotto questa coltre di ghiaccio. Quando noi fummo fatti tanto avanti, che il mio maestro piacque di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, cioè Lucifero, Lucifero era bellissimo, ma cadde, insomma, angelo caduto, no? Per essersi ribellato a Dio, Se vogliamo, nel mito greco ci sono delle anticipazioni. Prometeo, che per eccessivo amore dell'uomo pecca, commette un atto di ibris, di amartia contro gli dei, anche i giganti che danno la scalata all'Olimpo, prima ancora l'androgino, il mito di Platone, no? L'androgino che fondendo in sé sesso maschile e sesso femminile si fa prendere da questo delirio di onnipotenza e pretende di sfidare la divinità. Questa idea della sfida alla divinità si trova anche nel mito classico, mentre nella visione islamica Iblis, cioè il demone, demonio insomma islamico, ha commesso una colpa che non è quella di essersi ribellato all'onnipotenza di Dio, ma al contrario di aver rifiutato di adorare l'uomo, di venerare l'uomo. Il demonio islamico rifiuta di rendere omaggio, di venerare l'uomo, quindi la colpa del demonio islamico non è quella di essersi ribellato a Dio, ma di non aver riconosciuto la dignità e la magnificenza dell'uomo. Allora, quando noi fummo, ecco, dinanzi mi si tolse e fe restarmi. Ecco dite dicendo, ed ecco il loco dove convien che di fortezza tarmi. Dite, qui Satana viene indicato con questo nome, dite, che è il nome classico del dio dei morti, no? Cioè, questo sincretismo, no? Pagano, trattino cristiano, che è tipico di Dante. Com'io divenni allor gelato e fioco, non dimandar lettor, che non lo scrivo, però con ogni parlare sarebbe poco. Ecco, interessante notare che l'ineffabile per Dante non riguarda soltanto la sfera di ciò che è sublime, di ciò che è eccelso, di ciò che è troppo perfetto e divino per poter essere espresso con parole umane, ma ineffabile, indicibile a volte è anche ciò che è troppo orrendo, troppo spaventoso. Esiste la sfera del dicibile, e si può uscire da questa sfera del dicibile sia verso l'alto che verso il basso. Cioè, ci sono cose troppo sublimi per poter essere espresse con parole umane, ma ci sono anche cose troppo vili, troppo spregevoli, troppo basse per poter essere espresse. Esiste un sublime d'anon e un sublime d'en bas, come dicono i francesi, cioè un sublime dall'alto, un sublime, un antisublime, ecco, dal basso, ma in fin dei conti anche ciò che è orrendo, anche ciò che è disgustoso, che è spaventoso, che è spregevole, può diventare oggetto di grande poesia. Io non morii e non rimasi vivo. Ecco, notate questo verso. In genere è l'esperienza mistica, sono i mistici medievali che paragonano la visione del divino a una sorta di morte, morte spirituale, morte mistica, intesa però come qualcosa di positivo, insomma, morire al mondo, abbandonare il corpo, abbandonare la terrestrità, abbandonare i vincoli terreni per avvicinarsi alla divinità. In questo caso invece Dante rimane tramortito dalla visione spaventosa di Lucifero. Io non morii e non rimasi vivo. Anche qui c'è questa unità degli opposti o questa voluta ambiguità, no? Del discorso poetico. Pensa oggimai, beh, insomma, adesso se mi passate l'agitazione, molto terra terra, c'è anche quella canzone di Ligabue, no? Vivo, morto, X, no? Vivo, morto, X, qui Dante X, diciamo. Pensa oggimai per te, sei fior d'ingegno, quali io divenni, d'uno e d'altro privo. Quindi prova ad immaginare che cosa divenni io, non essendo più né vivo né morto. Non avevo più né la vita né la morte. Esattamente in quale condizione si trova di fronte alla visione di Satana, insomma, in una condizione che va al di là della vita e della morte, che supera il principio di non contraddizione, insomma, che non divide il sì dal no. Qualcosa di simile anche, cioè, abbiamo visto qualcosa di simile nel canto dei suicidi, no? Ingiusto fece me contro me giusto, io fei gibetto a me delle mie case. Che fece me a me uscir di mente, c'è anche lì nel Purgatorio il canto di Casella, in quel caso è qualcosa di positivo, che fece me a me uscir di mente, c'è il canto di Casella che provoca una sorta di stordimento, di fuoriuscita dell'anima da se stessa. Insomma, questa scissione, no? Ecco, scissura mensium, come diceva Tommaso d'Aquino. Questa lacerazione, questa crepa all'interno del principium individuationis, che diventa come un vaso incrinato, no? Per certi aspetti. Insomma, l'identità che viene incrinata, viene destabilizzata, anche se qui non c'è ancora la dissoluzione totale dell'io, che si avrà soltanto con la grande letteratura del Novecento, o forse già con Rimbaud, che alla fine dell'Ottocento arriva a scrivere Je est un autre, no? Io è un altro. Dante non arriva ancora, non si spinge ancora fino a quel punto. Dice l'imperatore del doloroso regno, cioè per l'appunto Plutone, cioè qui Satana, che però viene rappresentato come Plutone, da mezzo il petto uscia fuori della ghiaccia. E più con un gigante io mi convegno che i giganti non fanno con le sue braccia. Quindi qui ricorre una proporzione iperbolica, dice, no? Praticamente io, essere umano, sto ad un gigante come un gigante sta a Lucifero. Quindi bisogna immaginare questa creatura immensa, no? Enorme, smisurata, che ha delle ali di pipistrello, e sbattendo queste ali produce un vento gelido che mantiene coeso e perenne il ghiaccio del cocito, no, il pipistrello, poiché è associato anche ai vampiri, insomma, considerato creatura diabolica, creatura notturna, creatura di malaugurio. Gli danno anche la colpa del coronavirus, al povero pipistrello, che in fin dei conti fa un po' schifo, ma insomma, è soltanto un topastro con le ali, vabbè, e dorme a testa in giù, poverino, insomma, un po' strano, ma insomma, cosa ci vuoi fare? Vedi oggimai quant'esser dei quel tutto, se così fatta parte si confaccia, quindi prova ad immaginare, questi versi sono un po' fiacchi, a dire il vero, insomma, c'è questa rappresentazione, questa proporzione matematica per alludere alla grandezza di Lucifero, ma soltanto da un punto di vista così, delle dimensioni, da un punto di vista materiale. Se il fusi bello come egli è or brutto, e contro il suo fattore alzò le ciglia, ben dei da lui procedere ogni lutto. Cioè, la bellezza si è convertita in bruttezza. Beh, notate che qui c'è proprio una analogia e nello stesso tempo un rovesciamento dell'esperienza mistica. In fin dei conti era un angelo, Lucifero, anche se ora è diventato il principe dei demoni, no? E quindi c'è questa analogia, ma anche questo rovesciamento di un'esperienza mistica. Io non morii e non rimasi vivo. Si è notato che c'è proprio una corrispondenza fra un po' come nella messa nera, no? I satanisti quando fanno la messa nera, beh, la messa nera è qualcosa di analogo, ma nello stesso tempo di antitetico alla messa, quella cristiana, no? È come come recitare l'Ave Maria al contrario, no? Ci sono quelli che si mettono davanti allo specchio e recitano l'Ave Maria al contrario, cioè c'è questa idea di sdoppiamento, di specularità, ma anche di rovesciamento, no? Qualcuno ha notato questa sottile, se vogliamo, blasfema analogia fra la figura tripartita, trifaria di Lucifero e la Trinità, che alla fine del paradiso viene rappresentata con i tre cerchi, all'interno dei quali è inscritta una figura umana, la nostra effigie. Forse Dante vede se stesso, vede il proprio stesso volto inscritto nei tre cerchi che dovrebbero rappresentare la divinità, quindi forse la meta ultima del suo viaggio è la conoscenza, la visione di se stesso. Ma questo sarebbe davvero un atto di ibris quasi luciferina e prometeica. Ma ecco, o quanto parve a me gran meraviglia quando vidi tre facce alla sua testa, parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza, dirà Dante. Praticamente Lucifero, un angelo caduto, una sorta di specchio rovesciato, deformato, sovvertito, insomma, della divinità. È davvero un paredro quasi della divinità. Cioè, no. D'altra parte anche l'inferno è stato creato da Dio, no? Fecemi la divina potestate, la somma sapienza, il primo amore. Anche lì, triplice elemento, no? Il Dio uno e trino che ha dato forma all'inferno, paradossalmente. Sembra assurdo, ma anche il regno del male, in fin dei conti, è stato creato da Dio, secondo la visione cristiana, per chi ci crede, ovviamente. No? Dice, ecco, l'una dinanzi e quella era vermiglia, l'altra erano due che si aggiugnieno a questa, sovresso il mezzo di ciascuna spalla, e si aggiugnieno al luogo della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere la tal quali vegnon di là onde il Nilo si avvalla, cioè nera. C'è questo riferimento all'Africa, all'Egitto, al Nilo. L'Africa era per definizione mater monstruorum, no? La terra che ombra perde, dice Dante, con una splendida definizione, la terra senza ombra, questa terra di luce, così monotona, invariata, immobile. Sotto ciascuna uscivano due grandali, quanto si convenia a tanto uccello, vele di mar non vidi mai cotali. Sotto ciascuna delle teste uscivano delle ali di pipistrello, io non vidi mai vele, di navi che fossero così grandi. Non avevano penne, ma di pipistrello era lor modo, e quelle svolazzava sì che tra venti si movean da ello. Ancora l'insistenza sul numero 3, vedete. Non c'erano penne, ma il loro aspetto era quello la loro condizione era quella del pipistrello, cioè del pipistrello, e quella svolazzava. Notate che qui il verbo svolazzare è usato in modo transitivo, cioè agitava quelle ali, sprigionando tre flussi di aria gelida che mantenevano il ghiaccio perenne del cocito. Quindi cocito tutto saggelava, questo verbo saggelava, questo imperfetto proprio, insomma, accentua l'aspetto durativo, perché questo si aggelava, un imperfetto che indica l'eternità. Con sei occhi piangea e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. Quasi come Polifemo che divora i compagni di Ulisse, anche se Dante non conosceva Omero, non leggeva Omero, ma questo Questo Lucifero sembra un po' un mostro, no? Come fa pensare un po' a Polifemo. No, Polifemo che è smisurato, dice proprio. Dante cerca disperatamente di ricondurlo ad una misura umana, ad una misura geometrica, ad una misura razionale, l'immensità del male, costituita da Lucifero, no? Questa proporzione architettonica, no? Come l'analogia proporzionalitatis è tipica della filosofia scolastica, della ratiocinans, che cerca di trovare una misura, no, a ciò che è per definizione aoriston, ecco, indefinito, come il male assoluto rappresentato da Satana. Da ogni bocca dirompea codenti un peccatore, a guisa di maciulla, sì che trae ne facea così dolenti. Chissà se per qualche via, qualche scrittore latino, Dante non sia stato in qualche modo a conoscenza della rappresentazione omerica di Polifemo, perché anche fin dei conti il male assoluto, ovviamente, vabbè, Polifemo non è Satana, ma agli occhi di un greco rappresenta il male assoluto, cioè la negazione di tutti i valori della grecità, la negazione dell'ospitalità, della razionalità, della civiltà urbana, no, la negazione di tutto. Così come per un cristiano, Satana è la negazione del vero, del bello e del bene, no? I cardini della visione cristiana. Sì che tre ne facea così dolenti. Ancora questa insistenza sul numero tre. E qui si potrebbe sbizzarrire anche facendo calcoli, no? Sul numero di versi che viene dedicato ai vari nuclei della descrizione, ma chissà che non ci sia come si chiama, la sezione aurea, anche qua, ma con un po' di sforzo si può vedere la sezione aurea praticamente ovunque. A quel dinanzi il mordere era nulla verso il graffiar, che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla. Cioè, i morsi erano ancora più feroci, ancora più micidiali dei graffi. Quell'anima lassù che a maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, che il capo ha dentro e fuori le gambe mena. Cioè, dice, l'anima lassù che ha maggiore pena, quella della divorata dalla testa centrale, Giuda Iscariota, no? Il traditore di Cristo, che ha la testa dentro, la maciulla, cioè le fauci di una delle teste di Lucifero, e fuori agita le gambe. Un'immagine quasi grottesca, proprio tipicamente grottesca, sarebbe quasi ridicola se non fosse così terribile. Degli altri due, che hanno il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è Bruto, vedi come si storce e non fa motto, e l'altro è Cassio, che par sì membruto. Cioè, Cassio aveva il fisicaccio, insomma, no? Era un po' come una specie di titano michelangiolesco. Da notare che appunto al centro c'è il traditore di Cristo, ai lati Bruto e Cassio, traditori di Giulio Cesare. È un accostamento davvero molto, molto strano, perché probabilmente qui c'è anche una sorta di sinistra parodia della crocifissione, no? Cioè, viene in mente un po' l'iconografia delle tre croci, no? Di Cristo con i due ladroni. Ma no, perché Bruto e Cassio, no? I cesaricidi che vengono posti non sullo stesso piano, ma sono così a fianco del traditore di Cristo, quasi come se tradire Giulio Cesare fosse grave come tradire Cristo, ma è molto strano perché, come è ovvio, Dante non colloca Giulio Cesare nel paradiso, non potrebbe, no? Si trova nel limbo. Cesare dagli occhi grifagni, dice Dante, lo caratterizza così, con questo sguardo minaccioso, gli occhi grifagni, cioè questo sguardo da cui traspariva tenacia, ma anche protervia e quasi crudeltà nel perseguire i propri disegni di potere. Come si spiega questo accostamento? Con tutta probabilità Dante, sulle orme di Sant'Agostino, vedeva anche la grandezza dell'impero romano come l'elemento di un disegno metastorico voluto dalla provvidenza divina. Era necessario che si formasse la potenza romana affinché essa potesse costituire una sorta di culla del cristianesimo. Per la diffusione del cristianesimo era necessario che l'autorità romana, in accordo con quella ebraica, condannasse a morte Cristo, perché Cristo doveva morire per redimere l'umanità. Quindi il bene e il male non sono scindibili, anche Lucifero, angelo caduto, ha comunque un suo ruolo necessario in quella che i padri della Chiesa chiamavano economia della salvezza, no? Usavano questo termine, o economia, cioè un disegno proprio voluto da un ordine superiore provvidenziale. Dante seguiva molto da vicino uno storico che oggi non studia più nessuno, quasi quasi più nessuno, forse qualcuno all'università. Paolo Orosio, grande storico, discepolo di Sant'Agostino, che un po' come Eusebio di Cesarea, altro grande storico, autore della storia ecclesiastica, aveva questa visione provvidenzialistica della storia, quella visione che si ritroverà nella Pentecoste di Manzoni, in generale nell'opera di Manzoni, anche se Manzoni non sarebbe così audace e, se vogliamo, così blasfemo da suggerire queste analogie, anche se per oppositionem, ecco, fra la Trinità divina, no, la Trinità del bene, rappresentata da Dio, e questa trinità del male, invece, rappresentata dalle tre teste di Satana. Ecco, poi se ci sarà tempo e modo, faremo anche un... lo pubblicherò lì in rete, se riesco a ripescarlo dal ventre del computer, un percorso che avevo fatto sulla figura di Satana in alcuni scrittori, Milton, Blake, Leopardi, insomma un excursus sul vero e proprio satanismo letterario, perché quando si dice satanismo, no, uno pensa agli imbecilli vestiti di nero che vanno a sgozzare le galline al cimitero di notte, ma quelli sono dei deficienti. Ma il satanismo come corrente letteraria, culturale, filosofica anche, beh, ha una storia illustre, si sovrappone del tutto al prometeismo, no? Non c'è una distinzione nell'immaginario romantico, soprattutto da Milton a Blake, fino a Shelley, non c'è una distinzione così netta fra la figura di Lucifero e quella di Prometeo. questo Lucifero trattino Prometeo può acquisire a volte anche valori quasi positivi, perché può rappresentare anche la ribellione dell'uomo con la sua razionalità e con il suo spirito libertario nei confronti dei dogmi che vengono imposti dall'alto. Questo in Blake, ma anche in Shelley, si vede con grande evidenza. Dunque, passiamo alla chiusa del canto e della cantica, versi 127 e seguenti. Luogo è laggiù da Belzebù remoto, tanto quanto la tomba si distende, che non per vista ma per suono è noto, non ruscelletto che qui vi discende, per la buca d'un sasso che gli è roso, col corso che gli avvolge e poco pende. Quindi il canto, quasi a fare da contrappeso alla scena terribile di poc'anzi, si conclude con questo locus amius, no? Questo quadretto che sembra quasi un piccolo idillio, no? Quindi no, c'è questo luogo in fondo all'inferno, lontano da Belzebù, lontano da Satana, che è un locus amius, come una piccola oasi quasi, no? Un'anticipazione del paradiso terrestre. No, lo duca e io per quel cammino ascoso entrammo a ritornare nel chiaro mondo, verso molto bello anche dalla sonorità molto aperta e luminosa, tutte queste A. Entrammo a ritornare nel chiaro mondo e senza cura avere da alcun riposo salimmo su, è il primo e io secondo, tanto che io vidi delle cose belle che porta il cielo per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Ecco, questo ultimo verso è rimasto celebre. Questa espressione che sembra così banale, cose belle, beh, è una sorta di richiamo, no? Quasi con una composizione ad anello al primo canto dell'inferno, anche all'inizio, no? Il viaggio di Dante era iniziato paradossalmente con un auspicio favorevole, prima che si frapponessero le tre fiere. C'era, ecco, canto primo, versi 57, no, versi 37 e seguenti. Tempera dal principio del mattino, il sol montava, cioè saliva in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, equinozio di primavera. Cioè il viaggio di Dante inizia in corrispondenza della stessa congiunzione astrale, vedetela. Costante importanza dell'astrologia che domina e guida proprio tutto il viaggio dantesco, la stessa congiunzione, la stessa configurazione astrale dell'equinozio di primavera, quella congiunzione astrale che secondo le credenze medievali vi era nel momento in cui era stato creato l'universo. Ovviamente per noi questi sono ragionamenti assurdi, perché come si fa a sapere esattamente il giorno e l'ora dell'inizio dell'universo? Per noi sembra tutto assurdo, ma come discorso poetico può essere suggestivo, no? Questa espressione, le cose belle, no? Tanto vedi, le cose belle che porta il cielo, ecco. Notate questo pertugio, no? La parola pertugio l'abbiamo trovata anche nel canto del conte Ugolino, solo che in quel caso il pertugio era qualcosa di assolutamente angoscioso e angosciante, perché l'apparizione dei corpi celesti attraverso quel pertugio scandiva l'inesorabile avvicinarsi della morte e della dannazione. Mentre qui il pertugio lascia intravedere la speranza, anzi la certezza di una uscita finalmente all'aria e alla luce. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, no? È significativo che tutte e tre le cantiche si concludano con questa parola, stelle, no? Stelle, che sono anche una. Un riflesso, se vogliamo, della luce divina, è uno scintillio dell'ordine cosmico, no? Pondere et mensura. Insomma, no, le sacre scritture dicono: tu Dio hai ordinato tutto l'universo, pondere et mensura, cioè, ponderazione e con armonia, insomma. Ecco, no? Dunque, quindi per ora, anzi, l'inferno, per quest'anno ci accomiatiamo da Dante, pur nella inevitabile compendiosità di questo percorso di lettura, e a risentirci su queste frequenze.